Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Ribenvenuto al dottor Lorenzo Castellani. Buongiorno, buongiorno dottore. Ho dovuto richiamarla perché sono arrivate tante mail dei nostri ascoltatori sportivi che si sono lamentati dicendo avete parlato di spalla ma non avete parlato in modo particolare della spalla di chi si allena in palestra o fa uno sport in modo amatoriale ma con un certo impegno. Ho invitato il dottor Castellani perché è responsabile della chirurgia della spalla presso il gruppo di chirurgia articolare ricostruttiva all'IFCA di Firenze. Dottore, allora occupiamoci degli sportivi. Le spalle degli sportivi sono anche belle da vedersi. Molto belle, richiedono anche molte attenzioni. Perché non è facile, vero, allenare i muscoli della spalla, definirli? No, molto spesso si creano proprio degli squilibri tra la parte, diciamo, anteriore più superficiale dei muscoli della spalla e la parte più profonda, che è quella più importante per avere una buona stabilità nei movimenti. Ma per avere delle belle spalle, lei sa a che cosa intende? Io penso maschili e femminili. Quali sono gli esercizi, gli sport che modellano e rinforzano la muscolatura senza stressarla? Domanda da mille punti. Dipende anche un po' dai gusti, nasce, perché vero? A qualcuno piacciono spalle più muscolose, a qualcuno piacciono spalle più delicate come profilo, come sì. silhouette. Quindi l'allenamento varia molto a seconda vogliamo ottenere massa o vogliamo ottenere tono e forma. Per cui questo cambierà a seconda dei gruppi, ognuno ha le sue, diciamo, gusto estetico. Però ci sono dei criteri che valgono per tutti, e i criteri che valgono per tutti è l'armonia dello sviluppo di questi muscoli. Dobbiamo fare attenzione perché tutte le cose facciamo durante il giorno, oltre che la gran parte delle attività sportive, allenano i muscoli che tirano verso l'alto la spalla. Quindi abbiamo tutta una comparsa di sintomi legati a la risalita della testa omerale, cioè la risalita della spalla, dovuti a degli attriti anomali, proprio perché gli abbassatori della testa omerale non sono altrettanto allenati. Sono noiosi da allenare, richiedono esercizi specifici, ogni personal trainer fa dedicare in palestra tempo a questi muscoli che ormai sappiamo essere la chiave della salute della spalla. Dove li localizziamo esattamente, così vediamo? Sono dei muscoli profondi e questo è il difficile, eccola, non li vediamo. Non li vediamo ma ci sono. Sono intorno alla scapola, sono degli stabilizzatori che si chiamano sottoscapolare e sottospinato, nomi difficili, sì. Che però indicano qualche cosa che difficilmente alleniamo in maniera spontanea. Ci vuole qualcuno che ci tira un po' le orecchie e ci dice ok, questo ti piace farlo, va bene, è il tuo sport, però prima preparati con questo allenamento. Ecco, questo allenamento in qualche modo può prevenire dei problemi che sono abbastanza frequenti negli sportivi alla spalla. E io lì vorrei arrivare perché può uscire la spalla di posto. È un problema tipicamente degli sportivi o c'è un problema un po' di marchio di fabbrica? Si nasce con la lassità della spalla? È un misto tra le due cose, un po' ci si nasce, un po' ci si diventa. Sfortunatamente in maniera comune è un trauma importante, sì. Per cui magari associato a una predisposizione in cui uno è un pochettino più elastico nei movimenti, si associa a un infortunio che spinge l'articolazione generalmente a uscire al davanti della scapola. Sì. È la cosiddetta lussazione di spalla, quando mi esce la spalla si perde il contatto tra la scapola e il braccio. È una situazione che uno non può non conoscere se gli è successa, perché è una situazione eclatante. Fa molto male e si deve ricorrere ad un pronto soccorso per ridurla in maniera tempestiva e il più possibile atraumatica. Si può prevenire in parte, perché con l'allenamento dei muscoli è come se noi imparassimo a scalare le marce quando guidiamo l'automobile. È chiaro che se ci mancano i freni, ci taglia la strada on tir, ci finiamo dentro. Per cui bene, sì, prevenzione, allenamento di tutto quello che stabilizza la spalla, l'infortunio con una distorsione in qualcosa di imprevedibile ce la può far uscire lo stesso. Si può continuare l'allenamento, meglio fare uno stop. E con un'uscita di spalla è un avvenimento che sicuramente ha fatto un grosso danno a capsule e legamenti, è necessario uno stop. Non sono così prolungati come nel passato, è indicato generalmente 3 settimane di tutore dopo aver rimesso la spalla a posto e poi gradualmente riniziare l'attività con una fisioterapia. Dipende tanto da che tipo di sport facciamo. Siamo degli atleti agonisti o siamo degli amatori? Quanti anni abbiamo? perché la statistica ci dice che più siamo giovani, più è probabile che risucceda un altro episodio di lussazione nonostante il corretto trattamento. Quindi su alcune categorie di pazienti siamo più aggressivi, succede la lussazione, io dopo domani ti opero per ripararti quello che si è rotto. Ci sono pazienti invece che hanno minori esigenze sportive e hanno età diverse, su cui diciamo va bene, primo episodio, tranquilli, facciamo la nostra riabilitazione e vediamo quanto questi legamenti hanno una possibilità spontanea di autoripararsi. Dottor Castellani, quindi parliamo di una spalla giovane, e sportiva. È quella la spalla più a rischio di lussazione, insomma di uscire fuori posto. Ci sono persone che hanno questo problema più volte e che fanno un po' il fai da te. Lei che ne pensa? Non è tanto indicato il fai da te. Non ci piace, non ci piace. Non ci piace molto. Non ci piace anche perché se fortunatamente nel fuoriuscire la spalla questa provoca pochi danni, nel rimetterla dentro ne possiamo fare molti. Ecco, quindi direi di fermarci, di andare al pronto soccorso, conviene, e di farci vedere. Dottore, vogliamo invece occuparci di tutta un'altra spalla, e penso alla spalla che ha sopportato tante primavere, quindi delle spalle delle persone più anziane, quindi magari sono state spalle sportive, ma con gli anni hanno un po' abbandonato, si è un po' spenta la passione nei confronti dello sport. C'è una chirurgia che è ricostruttiva anche per risolvere i problemi che più frequentemente possono colpire le spalle degli anziani. Quali sono le novità? Sì, qui è molto importante spendere qualche parola, perché quello che succede spesso è che pazienti più anziani hanno come l'idea di non poter più far nulla per le loro spalle. Arrivano un pochettino arresi, magari giustamente portati dal nipote o dal figlio che si prende cura di loro, e in realtà sono pazienti su cui si può avere un grande risultato. Sono pazienti che fanno fatica a sollevare il braccio, magari riescono neanche a pettinarsi, hanno imparato a usare il lato sinistro per fare le cose perché il destro non ce la fanno più, tutte le volte devono sollevare il braccio, si accompagnano con l'altro braccio per sollevarlo. Questi pazienti hanno probabilmente una lesione dei tendini che si è cronicizzata nel tempo. Sono pazienti che, grazie a un'invenzione geniale di un francese che si chiamava Goutalier, hanno la possibilità di mettere una protesi inversa di spalla. Cambia l'anatomia della spalla per farla funzionare senza quei tendini ormai non più utilizzabili. Un genio questo. Forse anche un po' fortunato, forse molto geniale, non lo sappiamo. Di fatto ha portato avanti questa filosofia che oggi è il tipo di protesi di spalla più frequentemente utilizzata. Ma è un intervento complesso, a cielo aperto, come diciamo noi, presenta come tutti gli interventi, immagino, dei rischi quanto alti, e la riabilitazione, trattandosi di un paziente anziano, parliamo spesso anche di pazienti fragili, che quindi hanno magari più patologie, e comunque di che tipo di intervento si tratta? Allora, è un intervento comunque a cielo aperto. Bisogna fare un'incisione perché la protesi deve passare attraverso i tessuti e non possiamo farlo con le artroscopie e le telecamere. Si tratta di un intervento che è molto meno invasivo di anche ginocchio, perché fortunatamente la spalla è un'articolazione più piccola, perde meno sangue, quindi sottopone il fisico a un carico nettamente inferiore rispetto alle protesi delle articolazioni cosiddette maggiori. È un tipo di intervento consigliato per le persone anziane che hanno meno tempo da dedicare alla fisioterapia, perché questo cambiamento dell'articolazione rende la spalla stabile da subito. Quindi non c'è bisogno di una riabilitazione formale sui tendini che già sono usurati e non ci sono più, ed è il motivo per cui si fa questa protesi. È una protesi che ha poco bisogno di riabilitazione anche rispetto a una riparazione che si fa dei tendini in un giovane. Perché è riservata solo agli anziani, se ha tutti questi vantaggi? Ha dei limiti che sono legati alla forma nuova che diamo all'articolazione, che non è più quella della spalla normale. Quindi se uno si opera di protesi inversa di spalla pensando di avere la spalla di un ventenne, sarà deluso. Se uno si opera come deve di protesi inversa di spalla solo quando la spalla non si solleva più, non riesci a vestirti, a pettinarti, a lavarti in maniera autonoma, riprende quelle autonomie dei gesti quotidiani che per una persona anziana danno molto, non condannano una persona ad avere delle assistenze fisse in casa. Dal punto di vista estetico? Cambia un pochino il profilo della spalla. Questa è una domanda molto intelligente, perché effettivamente portando l'articolazione più in basso e più sotto rispetto alla scapola cambia un po' il profilo. Quindi se avete amici o conoscenti che hanno fatto protesi inverse di spalla, noterete questa piccola perdita di profilo. il tondo della spalla, che è quello del deltoide, quello che dà una forma armonica, viene un pochettino perso. Dottore, io la ringrazio per questi aggiornamenti e mi sa che ci risentiremo presto, perché la spalla, abbiamo alzato un po' il coperchio, ci sono un sacco di persone che ne soffrono e finalmente hanno detto, beh, ne parliamo finalmente con tutte le novità, anche indicazioni per arrivare ad una diagnosi corretta. Quindi se volete lamentarvi, dillo alla Nico, 349-238-6666, ma raccontatemi anche delle cose belle, buone notizie. Che fate oggi, ad esempio? E chiudiamo oggi il nostro mini corso per la felicità insieme a Raffaele Morelli. Raffaele, ciao. Buongiorno, buongiorno. Mi spiace, è già l'ultima puntata, ma ci saranno altri corsi. Intanto, oggi? Allora, il quinto codice della felicità, forse il più importante. L'abbiamo tenuto per ultimo. È il dirsi, io non sono nessuno. La favola bella con cui Ulisse inganna il ciclope, chi sei? Nessuno. Il gioco che piace così tanto ai bambini, nessuno. Quella che Choran, il grande filosofo scrittore, chiamava la nientità, non è il nulla, è un'energia. Se sto litigando con te e mentre litigo mi dico io sono nessuno, io faccio entrare un'energia sconosciuta dentro di me. Il meglio della vita viene quanto più tu sei a te stesso sconosciuto. Perché non ripeto perché non, bravissima, io da Nicoletta imparo sempre dalle sue domande. No, ma è la verità, perché quando qualcuno mi viene in psicoterapia e mi dice dottore io mi conosco, si sbaglia, nessuno si conosce, ma non dobbiamo neanche conoscerci. Le radici della pianta che fanno i fiori, le foglie, i frutti, che fanno fiori colorati, se ne stanno nascoste nel buio, non vedono neanche i fiori colorati che fanno, quindi non dobbiamo conoscerci. Ma il problema è che quello che noi chiamiamo il conoscersi altro non è, come hai detto tu bene prima, una serie di ripetizioni, no? Io so che sono una che perde la testa per niente. Non è vero, ti è capitato qualche volta, ma non è vero, tu non sai chi sei. Allora prova a dirti sono nessuno, e in quel nessuno entri nel regno del vuoto, del nulla, così caro ai taoisti, quella energia da cui nasce la creatività. Guarda i bambini quando giocano. I bambini quando giocano sono silenziosi, cambiano personaggio, recitano tanti ruoli. Perché? Perché scendono nel nulla, si lasciano guidare da un'energia sconosciuta, no? E assumono tanti volti. Pirandello diceva che vi sono tante facce nel mondo, ma pochi volti. Perché spiegava molto bene che noi spesso assumiamo le facce, le espressioni che gli altri vogliono che assumiamo, no? Dai, fammi un sorriso, dai un bacino alla mamma, dai, ridi alla mamma, no? Ma in realtà il nostro volto è unico. Ci sono venuti milioni di anni per fare il volto della Nicoletta, milioni di anni, ere infinite. E quindi tutti gli antenati del mondo sono in noi, siamo esseri speciali, antichi, primordiali. Perché ce la prendiamo per delle sciocchezze inutili, per una frase detta di traverso? Perché diamo con tutta importanza all'inutilità? Perché teniamo in piedi rapporti che sono morti da anni? Perché? Prova a dirti sono nessuno, vedrai che le cose si mettono a posto. Grazie Raffaele Morelli per essere stato con noi tutta questa settimana con il mini corso per la felicità. Grazie a voi, ci sentiamo a mezzogiorno e poi ci vediamo in diretta Facebook. Buonissima giornata a voi.